arrivata una tipa poco dopo le sei. Alle 7:10 ero innamorato di lei. Non l'ho nemmeno incontrata, ma l'ho sfiorata. Con la fantasia l'ho anche un po' sposata. Le ho rubato una foto, una foto sfocata, profonda e perfetta per una storia inventata. La vedranno tutti, se qualcuno ci crede, qualcuno se la beve la mia felicità. Due figli, un brutto ceffo che con lei li ha fatti, ma nessuno sa il perché. E quel passato alle spalle, Mary è donna capace, non sa trovare un uomo e non si dà pace a un ragazzo dei giochi. Una volta al mese lei è innamorata, ma lui non si concede. Ma quella volta al mare, coi figli sorridenti, foto e musica dolce, e ci credono tutti contenti. Basta crederci un po', quasi bella, e si impegna un bel po', si è tolta un po' qua, si è aggiunta un po' là, e quando scende